È uscito il 4 giugno scorso una nuova versione di Il Fiore per te, brano dei Sic Tamburo, e noi ne parliamo di questo e di altro ovviamente insieme a Gianmaria Cusani, che è al telefono con noi. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao. Una versione diversa, più acustica di questo brano che aveva un po' di anni, 7 anni fa se non sbaglio era uscito la prima volta. Sì, allora era il nostro terzo disco Senza Vergogna, sì, un bel po' di anni fa, sì. Questa è una versione proprio, come dici tu, acustica, perché è fatta proprio chitarra acustica, chitarra e voce, è presentata come Gianmaria Cusani, non come Sic Tamburo, nonostante il brano sia appunto, come dicevi tu, uno dei punti di forza ormai dei Sic Tamburo, però è stato fatto questa. Ho voluto fare questa sorta di operazione per presentare questo spettacolo che porto in giro d'estate, che mi vede raccontare la mia storia dentro la musica, di questo sogno realizzato che ho avuto da bambino, attraverso appunto aneddoti e canzoni fatte appunto chitarra e voce. E Il Fiore per te è uno di quelli che verrà ovviamente fatto, quindi ho voluto in qualche modo anticipare questa operazione, questo spettacolo, chiamiamolo così, che non saprei bene come chiamarlo, è un misto tra uno storytelling e un concerto con chitarra e voce, no? Appunto ho voluto presentare questa cosa proprio con il singolo che è Il Fiore per te, appunto. Poi sullo spettacolo ci voglio tornare, però voglio restare un attimo ancora sul Fiore per te, perché c'è anche un video molto minimale, ci sei tu seduto che suoni una chitarra acustica, un video che toglie piuttosto che mettere, no? Perché forse così ci sì, sono... perché allora l'idea era proprio di far arrivare la percezione di quello che è veramente lo spettacolo, cioè lo spettacolo è proprio così, io sono da solo su un palco con la chitarra, in realtà ho una chitarra elettrica e non acustica quando faccio questo spettacolo, però nella maniera più cruda possibile, proprio per avere un rapporto col pubblico di totale uguaglianza, no? Proprio perché racconto delle cose in qualche modo, anche se poi suono per metà, però do fondamentale importanza alle parole, anche delle stesse canzoni, i testi sono predominanti in questo caso piuttosto che la musica, e quindi il video stesso è, come dici tu, molto minimale, è stato tolto tutto quello che si poteva mettere fondamentalmente, è proprio come uno mi vede sul palco. Tu dicevi prima l'importanza delle parole, ascoltando questa nuova versione, il testo insomma del Fiore per te, chi è fan, vostro fan, chi vi segue non può non pensare anche a Elisabetta, sembra quasi una dedica questa. Poi lo racconto durante lo spettacolo, diciamo che ho scritto centinaia di canzoni e forse un terzo sono o dedicate o parlano dell'Elisabetta, questo perché cioè, io e Elisabetta abbiamo sempre avuto un rapporto che in qualche modo ci faceva essere quasi un'unica unità, no? Un'unità, non due due elementi separati, però in questo caso Il Fiore per te è legato a un'altra persona, diciamo, è sempre legato a me ma non all'Elisabetta, ce ne sono tante altre che sono legate, certo, all'Elisabetta e che parlano in maniera esplicita dell'Elisabetta, a partire dal singolo dell'ultimo disco, poi ancora, che era una canzone nata per l'Elisabetta, ma poi Un giorno nuovo, la fine della... cioè, guarda, se ti dicessi quante canzoni parlano o sono dedicate a Elisabetta, tempi dei prosa che ho oggi, non, cioè, faresti difficoltà a creare, perché sono veramente tante. Dicevamo, da grande faccio il musicista, è questo lo spettacolo che porterai in giro? Ho visto che ci sono già un bel po' di date. Sì, c'è un bel po' di date già fuori, adesso ne stanno arrivando altre, spero che ne vengano fuori un bel po', perché l'altra estate avevo provato, diciamo, a fare qualche data con questo spettacolo, visto che proprio non si poteva fare niente, e devo dire che mi sono divertito tanto e mi è servito anche a superare almeno in parte certe questioni che mi sono successe, vedi quella dell'Elisabetta, proprio essere sul palco a raccontare tante cose, è ovvio che parlo anche, perché parlo di tutto la mia vita legata alla musica, quindi cioè ho fatto 20 anni, no, 20 di più, quasi 25 anni in compagnia dell'Elisabetta, quindi è evidente che parlo, c'è tanta Elisabetta nel mio racconto. Ecco, l'8 luglio appunto ci sarà l'occasione anche di vederti a Bologna, al Covo, e quindi insomma questo è un appuntamento che intanto gli ascoltatori e ascoltatrici si possono segnare. E sempre a proposito di questo tour, ti volevo chiedere un'altra cosa, insomma ti abbiamo conosciuto con il punk, diciamo, dei Prozac Più, musica insomma ad alto volume, adesso sei in una dimensione molto più intima, dovevi fare una sorta di bilancio anche? Sì, ma guarda, fondamentalmente questa cosa che è nata molto anche grazie, tra virgolette, alla questione del Covid, perché ricordo la scorsa estate il mio agente mi ha chiesto, guarda che c'è tanta gente che vorrebbe, si potevano fare quei concerti, sai, con la gente numerata, sai, con le entrate contingentate, quindi con la gente, poi con la gente seduta, c'è tanta gente, sono tanti promoter che chiedono se fai qualcosa da solo, e io ho detto no, guarda, a me suonare da solo proprio mi fa schifo, ho detto, no? Però poi era da tanto che avevo in mente questa cosa qui, di questa sorta di racconto, no? E allora ho pensato, vabbè, e se metto insieme le due cose, cioè racconto e suono un po', quindi diciamo che sotto spinta del mio agente mi sono deciso a mettere in piedi questa roba qua, che è completamente intima, come dici tu, è proprio, è come parlare a un amico con la chitarra in mano, fondamentalmente, solo che è una storia che tocca tanti argomenti abbastanza conosciuti, perché parto da quando sono piccolo, che ho iniziato a far musica, che avevo 6 anni, a quando ne avevo 13, che sono entrato in quel movimento artistico che si chiamava The Great Complotto, adesso io non so se tu lo conosci, sì, ma sì, diciamo che era quel movimento nato sulla scia del movimento punk inglese di fine anni 70, ed era un movimento molto famoso in tutta Italia. Da lì poi parlo della mia esperienza di quando sono andato a Londra a suonare a 18 anni, ho lasciato tutto, sono andato via, sono tornato, ho messo in piedi Prozac più, sai, tante cose. Racconto di tante cose, di quando facevo il tour manager con i gruppi inglesi e americani, che erano poi alla fine i gruppi che piacevano tanto, che preferivo, quando ho fatto il tour manager per i Ramones, per i Beastie Boys, cioè racconto tutte cose legate alla musica, però alla fine sono mantenute tutte assieme da quest'idea di voler fare di questa meravigliosa cosa che è la musica un lavoro, che è stato il mio sogno da quando ero bambino, che si è realizzato, e niente, ho voluto raccontarlo, ed è quello che fondamentalmente propongo dal vivo. Mi hai fatto venire in mente un'ultima domanda che ti vorrei fare a proposito della musica come lavoro, perché purtroppo viviamo in un paese in cui la cultura siamo in considerati generale... degli zero. Sì, esatto. No, esatto, quando dici ma cosa fai nella vita? Il musicista? No, ma di lavoro, ecco. Allora, questa frase che hai appena detto è la frase che mi sono sentito dire per tutta la vita. Io quando andavo in giro anche per Pordenone, la mia città, ah ciao, qua, ma tu cosa fai? Io suono. Sì, ma di lavoro? No, purtroppo è così, cioè o sei il Vasco Rossi di turno, per dirne uno, no? Che allora ok, però la gente fa ancora difficoltà a comprendere che è fondamentalmente un'attività e quindi un lavoro, e c'è dietro tanta fatica, tanto impegno, tanta volontà, perché comunque non vai contro veramente tutto e tutti, cioè purtroppo siamo in Italia, come dici tu, arriverà il giorno in cui questo cambierà, me lo auguro veramente. Ma io volevo chiederti se secondo te questi anni di pandemia in cui siamo stati privati della musica dal vivo, no? In qualche modo possono aver aumentato la consapevolezza dell'importanza di questi lavori. Allora, io ci spero, ma purtroppo, ahimè, non ci credo. Basti pensare a come sono stati trattati gli artisti, e io artisti li chiamo tutti in maniera generica artisti, no? Anche quelli che lavorano attorno alla musica, no? Quindi dai fonici, datori luce, cioè li chiamo tutti artisti, perché fanno tutti parte di un insieme di persone che mettono in piedi lo spettacolo, no? Ecco, diciamo, per come siamo stati trattati, devo dire, siamo stati veramente lasciati come l'ultimo anello della catena, cioè io parlo, almeno che non eri uno di quelli più veramente fortunati, che quindi se no, cioè, aiuti zero, cioè devo dire, poi non si poteva fare nulla, tante altre professioni hanno comunque potuto usufruire di alcune cose, sai, la cassa integrazione e aiuti di qua, aiuti là. Ma sulla musica è arrivato veramente poco e nulla, specialmente agli artisti in senso esteso, no? Quindi non solo i musicisti, sì, ma tutti quelli. E perché poi magari sono arrivati alle grosse agenzie, a quelli sono arrivati, ma ai piccoli, i piccoli medi, no? Quelli che comunque sono conosciuti, però veramente sono stati lasciati lì quasi da soli. E credo che la gente, in qualche modo, mi auguro che tu abbia ragione, che in qualche modo questa privazione, in qualche modo adesso li spinga verso il desiderio, il rinnovato desiderio di musica e di arte in qualche modo, però qualche volta ho avuto il dubbio che invece questo periodo quasi non servisse a dimenticarsene, cioè quindi non so, non sono convinto al 100% che questa cosa è in qualche modo potrà dare uno slancio, cioè tra come siamo stati trattati dalle istituzioni e quest'idea che secondo me l'allontanamento in qualche modo può anche far dimenticare, e ogni tanto mi fa paura, diciamo. Speriamo che ti sbagli. Speriamo di no, poi sai, cioè, magari è così, però poi si riprende e la gente ripercepisce la bellezza di quello che facciamo, voglio dire. Certo. Quindi forse è una cosa che anche fosse così, e speriamo di no, è una cosa che si può recuperare, anche sono sicuro. Però insomma, invece credo che tutto questo aiuto in maniera estesa, intendo, da questa situazione, non ci credo. Insomma, certo. No. Allora Gianmaria, io ti ringrazio e adesso ci andiamo ad ascoltare la nuova versione del Fiore per te. Grazie mille. Grazie mille a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie.